Magazine 24, la rassegna dei settimanali. A cura di Mauro Meazza. Buona giornata a tutti, bentornati al nostro appuntamento con i periodici che sono in edicola, che sono in giro in questo periodo, in questa settimana, ma anche qualche mensile che leggiamo qua e là alla ricerca di notizie importanti e o interessanti, curiose. Naturalmente sono giorni cruciali per il voto in America, il voto che è atteso per martedì prossimo, martedì 4 novembre, e come dire, sia i settimanali italiani sia anche i periodici di lingua inglese sono naturalmente molto impegnati, molto occupati da questa circostanza. Avrete visto giovedì la copertina del magazine legato al Corriere della Sera che definiva il voto come il referendum, un sì o un no nei confronti di Barack Obama, e così anche ha scelto Repubblica ieri con il venerdì con una caricatura dello zio Sam, I vote you, ti voto, chi sono gli elettori che il 4 novembre sceglieranno tra Obama e McCain, ma diciamo di elezioni americane sono pieni un po' tutti i periodici. Ho notato una cosa curiosa su Newsweek, ve la sottopongo. L'articolo è di Jonathan Alter e si intitola provocatoriamente «Perché ha vinto McCain?». L'articolo naturalmente è un paradosso perché ovviamente non sappiamo ancora se ha vinto McCain o ha vinto Obama. L'articolo tra l'altro è poi stato ripreso e tradotto sull'Espresso, quindi lo potete trovare in traduzione italiana sull'Espresso, dove il titolo è stato modificato in «Oh my God, ha vinto McCain». E dice Jonathan Alter in questo articolo: è opinione comune, personalmente la condivido, che Barack Obama vincerà queste elezioni, ma i democratici hanno i nervi a pezzi, nei loro incubi peggiori temono di perdere la vittoria che hanno già in tasca. Ecco perché i democratici hanno questi timori, li riassume Alter in questo articolo di Newsweek dicendo sostanzialmente che il problema è un po' quello anche evidenziato dalla copertina Corriere della Sera, cioè il referendum, la posizione sul colore della pelle di Obama. All'inizio della campagna, ricorda Alter, la Newsweek si è chiesto: l'America è pronta per un presidente nero? E dice: se Obama saprà dimostrare di essere un candidato dai nervi saldi, in grado di gestire le cose, il colore della pelle potrebbe non essere determinante. La chiusura dell'articolo poi di Alter è comunque ottimista, perché dice: sono in realtà, penso che i democratici alla fine riusciranno a vincere. Ma nell'articolo di Alter compare un altro dato che è interessante e che si può andare a ritrovare anche su altri periodici che troviamo in circolazione in questi giorni. Cioè dice: il problema, dice Alter, sono i votanti, gli elettori a bassa informazione. Chi sono questi elettori a bassa informazione? Sono, dice lui, più o meno 75 milioni di persone che non hanno votato alle primarie, non leggono riviste, non leggono giornali, non guardano TV via cavo e sostanzialmente non danno una preferenza precedente al voto, cioè non si esprimono nei sondaggi. Questi votanti a bassa informazione sono quelli che risultano un po' il ruolo chiave nella campagna elettorale degli Stati Uniti. La cosa mi ha fatto ricordare che sul maschile del Sole 24 Ore, su Il, che è in edicola già da una settimana, c'è una bella inchiesta fatta da Mario Margiocco, che è andato a vedere appunto questi votanti dei profondi Stati Uniti d'America. Stati Uniti quelli veri è il titolo dell'articolo di Mario Margiocco, e dice: l'allevatore che tifa Obama, un latinista che fa il disc jockey, la scozzese Maggie che è pazza del Montana, insomma il cuore rurale degli States, che è in realtà la provincia che ha in mano la Casa Bianca. L'articolo che descrive appunto questi votanti della profonda America, l'America che vediamo di meno da questa parte dell'Atlantico, è sul maschile del Sole 24 Ore, ancora in edicola in questi giorni. Il momento delle elezioni poi, in realtà, il momento delle elezioni americane va a coincidere anche con un'aspettativa di svolta, di uscita dalla crisi finanziaria. Si nota un po' su diversi periodici la tentazione di andare a scavare verso uno sviluppo economico diverso. Come potrebbe essere diverso? Diverso, abbiamo detto la settimana scorsa, magari stili di vita più sobri, una sorta di neopauperismo. Ecco, ora si sta puntando molto, mi pare, almeno a giudicare dai periodici che vediamo, sullo sviluppo cosiddetto verde. Infatti la stessa copertina di Newsweek è intitolata a questo, dice il salvataggio verde. Lo sviluppo verde praticamente è la possibilità di arrivare a una diversa crescita economica, di sostenere ugualmente la crescita economica, ma passando attraverso un forte investimento in tecnologie amiche dell'ambiente. Newsweek per parte sua mette in fila le dichiarazioni, gli impegni più importanti, che sono quelli appunto dello stesso candidato Barack Obama, ma anche di Gordon Brown, del presidente francese Nicolas Sarkozy, del segretario generale delle Nazioni Unite Ban Ki-moon, che si sono via via spesi in queste settimane indicando una possibile via verde alla ripresa. E questa via verde alla ripresa la ritroviamo anche su Famiglia Cristiana, ad esempio. Famiglia Cristiana parte da un articolo intitolato La battaglia dell'ambiente. Qui siamo su cose più europee, più italiane, si discute di queste direttive, di questi impegni che l'Europa vorrebbe prendere per la riduzione delle emissioni, ma su cui l'Italia ha segnalato i costi molto alti. Presenta Famiglia Cristiana un'intervista al ministro Stefania Prestigiacomo, ma anche una replica a un ex ministro, Alfonso Pecoraro Scanio. Le due posizioni sono ovviamente molto distanti. Dice a Prestigiacomo: il nodo centrale che noi ci troviamo di fronte in Europa è che ci sono dei costi del pacchetto di riduzione delle emissioni sui quali in 2 anni non è stata data alcuna informazione dalla UE. Quando finalmente in settembre sono usciti i numeri di uno studio della Commissione e noi abbiamo rilevato costi elevatissimi, ci hanno detto che i loro numeri non erano veri. C'è poi il nodo dell'equità, perché se l'Europa vuol fare il Don Quixote del clima, lo faccia quantomeno ripartendo equamente i costi di questa battaglia fra i suoi membri e non penalizzandone alcuni come l'Italia e avvantaggiandone altri. Quindi la posizione su questo punto particolare, cioè la riduzione delle emissioni, posizione italiana molto distante da quella degli altri partner europei, e invece le tendenze un po' più internazionali per una possibile via di sviluppo amica dell'ambiente. Questa possibile via di sviluppo amica dell'ambiente è ripresa appunto dall'ex ministro Alfonso Pecoraro Scanio, occupava il posto che ora della Prestigiacomo nella legislatura precedente. Prestigiacomo segnala che in realtà investire in tecnologie verdi può essere un affare, può essere un vantaggio. Cita i casi di aziende che hanno investito producendo secondo criteri ecologici e sono riusciti ad averne un vantaggio, come si dice, un vantaggio competitivo, cioè una maggiore capacità di vendita sui mercati. Cita anche il caso della California di Schwarzenegger. Pecoraro Scanio dice: la California di Schwarzenegger, che è un conservatore, ha aumentato il proprio PIL del 75% in pochi anni investendo sul risparmio energetico ed energie alternative. Vedremo allora se la nuova economia che possiamo avviare dopo la crisi è significativamente più amica dell'ambiente, ovvero, come invece segnala la posizione italiana in materia di emissioni, dovrà necessariamente fare qualche passo indietro e sposare un deciso pragmatismo per reagire alla crisi stessa. Un caso interessante di sviluppo amico dell'ambiente è quello che ci viene presentato da Il Mondo. Il Mondo ci segnala il caso di una cittadina svedese della Svezia meridionale, il nome è Vaxio, ma chiedo scusa perché probabilmente lo pronuncio male. È il capoluogo della contea di Kronoberg nella Svezia meridionale, avverti il servizio firmato da Chiara Brusini. Ora, questo centro svedese ospita tra l'altro un'università con 16.000 studenti ed è conosciuto come Regno dei Cristalli perché è posto di vetrerie. Spiega Brusini che nel 1996 i politici locali hanno deciso che la città avrebbe dovuto rendersi indipendente dai combustibili fossili. Da allora, parla il sindaco conservatore Bo Frank, che è stato eletto nel 2007, le emissioni pro capite sono state abbattute del 32%, vale a dire che ogni cittadino produce ora poco più di 3,3 tonnellate di anidride carbonica all'anno contro le 19 di un nordamericano, le 8 della media europea. Fin qui un buon risultato ambientale, ma più volte si legge. Ma l'aspetto più interessante è che negli ultimi 12 anni il reddito pro capite a prezzi costanti è cresciuto del 50%, più della media svedese. Il tessuto economico è un mix di piccole imprese, dell'information technology, dell'industria del mobile, del vetro e dell'alluminio, che convivono con gruppi globali come Volvo, Saab e Alstom Power. Quindi un caso di industria verde, di sviluppo verde, a quanto pare di successo grazie a una politica molto severa, quanto mai severa, di contenimento sulle emissioni. Lo troviamo su Il Mondo di questa settimana. Allora, dalla possibilità di sviluppo di studi, di ricerche, allora veniamo a questioni magari più di casa nostra. Su Panorama si segnala quanto male venga trattata la ricerca, appunto, ricerca che servirebbe però per trovare poi delle modalità alternative, magari più amiche dell'ambiente, come si dice. Secondo una tabella che compare in un articolo di Luca Sciortino, questa settimana su Panorama, i finanziamenti per la ricerca di base in Italia sono calati da 125 milioni di euro del 2001 a 96 nel 2008, una discesa pressoché costante dal 2005 in poi. C'erano stati invece dei piccoli incrementi nella prima fase degli anni 2000. I fondi alla ricerca sono ripresi con un altro caso anche dall'Espresso. L'Espresso, in un articolo di Roberta Carlini, titola «Siamo fermi a Fermi», con un gioco di parole dal nome di Enrico Fermi. «Il Dipartimento di Fisica della Sapienza è stato una scuola di Nobel, ma oggi tanti studenti emigrano per fare ricerca». E racconta Roberta Carlini di un apparecchio fermo, perché servono 40.000 euro per ripararlo. Il Dipartimento di Fisica dell'Università della Sapienza non ce li ha. L'apparecchio è un criostato a campo magnetico, serve, spiega, per misurare alcune proprietà fisiche delle nanostrutture. Non è niente di eccezionale, ma è una macchina che viene definita basilare. Dice un ricercatore in questo articolo di Roberta Carlini: anni fa ci è successa una cosa analoga nel laboratorio inglese dove facevo il post dottorato. Si è rotto un laser, un problema per i progetti di ricerca, una letterina del capo della struttura, e dopo un po' è arrivata la macchina nuova. I confronti internazionali, il commento di Carlini, sono impietosi e umilianti per chi qui è tornato per scelta e anche per orgoglio, certo non per soldi. E qui una volta di più ci sono dei dati che dimostrano, che segnalano come fare ricerca in Italia indubbiamente sia meno conveniente, meno pagante di quanto invece non sia all'estero. Magazine 24. Bentornati a Magazine 24. Vediamo quali altri argomenti ci sono sui periodici in circolazione in questo periodo. Si continua naturalmente a parlare di scuola, riforma della scuola, una riforma contestata, una riforma che sta provocando delle spaccature anche forti nel nostro paese. La posizione di Famiglia Cristiana nell'editoriale di Sciortino è molto molto netta. Dice: i tagli annunciati sono pesanti. In realtà, scrive Sciortino, Tremonti ha dettato la linea, la volenterosa Gelmini è andata allo sbaraglio spacciando per riforma la scure sulla scuola. Quindi si dà una lettura sostanzialmente molto negativa, si segnala più che altro la necessità di risparmio che sta dietro indubbiamente ai provvedimenti varati dal ministro Maria Stella Gelmini. Ma di riforma della scuola si parla naturalmente in molti altri, si continua a parlare in molti altri periodici. Vi segnalo una cosa per, come dire, cercare di stemperare se si può la tensione. Su questo punto è la rubrica di Pierluigi Battista, con cui che sta in ultima pagina del magazine del Corriere della Sera. Cosa ha fatto Pierluigi Battista? Si è immaginato una cronaca, un resoconto del 2035 in cui uno studente del 2008 racconta appunto i disordini del 2008. La cosa divertente è che l'articolo suo è pieno di strafalcioni e forzature grammaticali e lessicali, a dimostrazione che forse qualche cosa da rimediare alla scuola c'era. Ve ne do qualche saggio brevissimo. Dice: occupammo insieme ai genitori il landrone della scuola e alla fine di quella battaglia i maestri rimanettero tre, conservando alle nostre elementari quella palma eccellente eccellenziale nel mondo che tutti ci invidiavano e che fu stata riconosciuta persino dalle statistiche internazionali. Dicevano, sempre Pierluigi Battista, che immagina questo studente ormai divenuto adulto che ricorda anni dopo la battaglia del 2008, dicevano nel 2008 che la scuola non funzionerebbe come dovesse. Agitavano tutti arrabbiati le classifiche della UEFA sulle migliori università di tutto il mondo e gridavano che nemmeno un'università italiana era tra le prime 100 delle nazioni occidentali e grazie e chi le faceva quelle classifiche e così via. La chiusura dice: non è vero che siamo ignoranti come capre, non è vero che l'Italia c'ha senza H la coda al fanalino del mondo, non è vero che non si capiva a che diavolo servirebbe questa benedetta scuola, perché alla fine, e qui l'umorismo diventa un po' amaro, l'italiano la sfanga e se proprio uno è un secchione può sempre andare all'estero senza la scocciatura della scuola italiana. Questo è il finale un po' amaro in verità di Pierluigi Battista a proposito di riforma della scuola, necessità di intervento sulla riforma della scuola. A questo proposito vi segnalo che sul Venerdì, che è stato distribuito ieri con Repubblica, si racconta la storia di Christopher Paolini. Christopher Paolini è un autore di bestseller. La cosa rilevante è poi che ha soltanto 25 anni. E il titolo è, direi, tutto un programma, proprio parlando di riforma della scuola, perché dice: così a 25 anni vendo milioni di libri perché non sono mai andato a scuola. Questo dice Christopher Paolini, si spiega nell'articolo di Lara Crinò. Come altri bambini negli Stati Uniti, Paolini non ha mai frequentato la scuola. È stato educato in casa dalla madre, un ex insegnante montessoriana, e dal padre, ex consulente editoriale. Un metodo, quello del homeschooling, l'insegnamento appunto a domicilio, in casa, che Christopher difende strenuamente poiché, dice, ti permette di concentrarti e sviluppare un progetto fin da piccolo, con buona pace della socializzazione. Quindi forse si può anche fare a meno della scuola in qualche modo, a condizione, verrebbe da dire, di avere una madre che comunque fa l'insegnante, questo indubbiamente facilita le cose. E dalla scuola allora passiamo ai libri, perché qualcosa sta cambiando, molto probabilmente cambierà nel mondo dei libri. Su l'Economist di questa settimana si segnala un accordo fatto da Google per i libri digitali. Di cosa si tratta? Google, riferisce l'Economist, ha raggiunto un accordo con una serie di gruppi che rappresentano autori e editori, ha stabilito di scannerizzare, di mettere a disposizione su internet una enorme quantità di libri, quindi probabilmente il futuro della scuola e dell'apprendimento, dell'aggiornamento, può passare anche da questa forte digitalizzazione. La digitalizzazione, tra l'altro, è un tema che ricorre sempre, l'abbiamo trovato anche nelle puntate scorse, abbiamo parlato di Facebook, abbiamo parlato di sviluppi tecnologici innovativi, delle community che si creano, delle cosiddette reti sociali. Ecco, vi do qualche altra curiosità che ho trovato in questo periodo, ad esempio su L'Espresso di questa settimana, un articolo di Francesco Del Rico: ma sei tu o il tuo avatar? Ora, l'avatar è praticamente una sorta di alter ego di se stessi che si crea in alcune applicazioni di internet ed è come se fosse la nostra personificazione dentro internet. Ci sono addirittura dei programmi che permettono a chiunque, spiega Del Rico, di creare il proprio replicante digitale, e addirittura alcuni di questi programmi si basano su ricerche biometriche che sono state condotte inizialmente a livello addirittura militare o spionistico. Qui si riferisce il caso di una società Big Stage che aveva elaborato inizialmente un software addirittura per la CIA. Queste proiezioni digitali stanno diventando anche importanti nei rapporti che si possono avere con i professionisti, ad esempio avvocati, medici, altri professionisti che danno consigli sul web a chi li interpella. In realtà la rete ha anche un suo lato oscuro, ce lo segnala tra l'altro Newsweek di questa settimana. Si riferisce al caso della Corea del Sud, dove c'è una fortissima connessione, interconnessione nella popolazione, ma dove sta prendendo piede questo fenomeno delle calunnie telematiche. pratiche, e si riferisce in questo articolo di Newsweek di casi anche di persone che calunniate da queste mail, queste dicerie che giravano sul loro conto nelle chat room, hanno finito addirittura per togliersi la vita, in qualche caso persone famose come un'attrice appunto coreana di cui si parla in questo articolo. Quindi diciamo il lato più oscuro, meno simpatico forse della rete. Chiudiamo con una cosa decisamente diversa, ve la segnalo da Focus di novembre. Tra le molte cose che ci sono su questo numero, una gustosa storia della panchina, perché dovete sapere che la panchina non esiste da sempre, anzi in realtà la funzione rilassante della panchina, ci spiega Focus, è diventata centrale nel Medioevo, perché viaggiatori e pellegrini avevano bisogno di riposare, e da lì in poi la panchina si è sviluppata, ha avuto, diciamo, lo sviluppo che conosciamo attualmente. Una lunga e interessante storia della panchina su Focus di questo numero. Il tempo a nostra disposizione è praticamente scaduto, io vi segnalo che con Il Sole 24 Ore in edicola potete trovare English 24 per migliorare il vostro inglese. Tra l'altro English 24 ha anche una finestra su Radio 24 ogni sabato appunto alle 7:15 di questa sera, quindi questa sera potete collegarvi, sintonizzarvi ancora su Radio 24 per ascoltare English 24 alla radio. Ringrazio Peter Bescapé per la collaborazione tecnica e vi do appuntamento alla prossima settimana.